Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Presi a farmi vedere sempre più spesso nella cucina dove Nunziata trascorreva con Carmine gran parte delle sue giornate. A tutti i momenti le comparivo davanti e per obbligarla a notare la mia persona mi davo a camminare su e giù con aria quasi minacciosa, oppure mi buttavo disteso in terra sbadigliando, o rimanevo a lungo seduto a un passo da lei, fosco e superbo come un rimprovero vivente. Ma si sarebbe detto che per lei io ero diventato un corpo invisibile o poco meno. E se ripensavo che fino a pochi mesi prima questa madre bellissima mi aveva trattato come uno dei suoi parenti più cari, bramando i miei ordini come un onore, mi ribellavo agli infami capovolgimenti della sorte. Sentivo che non potrei mai avere pace se ella non ritornava ad essere, verso di me, almeno uguale a com'era stata prima della fatale venuta del fratellastro. E tuttavia non volevo a nessun costo tradire questa mia nostalgia ai suoi occhi. Studiavo perciò disperatamente un mezzo che, senza scalfire il mio orgoglio, la costringesse ad occuparsi di me, oppure a manifestare, una volta per sempre, la sua indifferenza irrimediabile verso Arturo Gerace. Una mattina, risalendo dal porto, la incontrai che, con Carmine stretto in braccio, per divertirlo si era data una gran corsa giù per la discesa. Correndo, cantava il ritornello napoletano «Vola, vola, palumella mia», con una voce forte come le zingare, e nel passarmi vicino addirittura non si accorse di me. Arrivai a casa solo e in uno sconforto tale d'averne il cuore dolorante. Sentii che non potevo sopportare più questo infame abbandono in cui essa mi lasciava, e all'idea di vederla fra poco tornare a casa come niente fosse stato, la mia volontà si ribellò, quasi esaltandosi nella brama di rompere questa acerba monotonia. Decisi che dovevo ad ogni costo punire quella femmina e costringerla ad interessarsi a me almeno per un giorno o per un'ora. E così, d'un tratto, mi risolvetti a uno stratagemma estremo che più volte mi era balenato nella mente durante quei miseri miei giorni. Esso mi apparve ormai l'ultimo mezzo che mi rimanesse, e consisteva in ciò, nella mia morte. Forse la vista della mia persona esanime poteva ancora far colpo su di lei. Non intendevo naturalmente di morire sul serio, ma per finta, studiando tuttavia una scena di verosimiglianza terribile, in modo che ella sicuramente cadesse nell'inganno. Ripensavo a quella volta che, mentre in realtà ridevo, avevo recitato la commedia di piangere, e lei, fino a un istante prima piuttosto risentita contro di me, si era subito allarmata e commossa, dicendomi con voce di pietà: «Artù, perché piangi? Che hai? Ma dilla, Annunziata!» Al ricordo di quel mio successo, la presente, ben altra prova, mi appariva più che mai tentante, e con suprema determinatezza, prevedendo che per le sue commissioni ella rimarrebbe circa un'ora giù in paese, senz'altro mi disposi ad attuare il mio piano prima del suo ritorno. Mio padre in quei giorni era in viaggio, ed io salì nella sua camera sapendo che là avrei trovato ciò che mi occorreva. Da qualche tempo lui soffriva di insonnia e spesso faceva uso di certe pastiglie di sonnifero, delle quali, partendo, aveva lasciato sul suo cassettone un tubetto quasi intatto. Mi erano noti, dai discorsi uditi casualmente, i poteri di quelle pastiglie. Sapevo che nella dose usata da mio padre, una o due al massimo, esse erano un rimedio blando, ma che, aumentando la dose, si trasformavano in un veleno. riversai nella palma le pastiglie contenute nel tubetto e le contai. Erano 9, proprio il numero che mi ci voleva, secondo i miei calcoli. Difatti, a quanto io ne sapevo, esso non potrebbe riuscire mai ad uccidere un uomo, ma basterebbe certo a dargli un qualche malore d'apparenza tragica. Che sorta di malore sarebbe stato, io non potevo prevederlo, se non in modo impreciso nella mia ignoranza, ma confidavo in un effetto abbastanza spettacoloso. E appropriatomi di tutte le pastiglie, discesi in cucina, dove scrissi il seguente messaggio su un foglio che lasciai sulla tavola spiegato e bene in vista. «Mia ultima volontà. Voglio che la mia salma abbia sepoltura in mare. Addio, Arturo Gerace. N.B. Distruggere questo foglio appena letto. Segretezza. Silenzio. Arturo». Quindi mi versai del vino in un bicchiere, considerando che forse quel farmaco maledetto aveva un sapore cattivo e il vino l'avrebbe migliorato. E uscii sullo spiazzo, giacché la cucina, per un suicidio, non mi sembrava un ambiente decoroso. Lo spiazzo mi parve la scena ideale, tanto più che Nunziata, di ritorno dalla spesa, rincasava sempre da questa parte. Mi domandavo ciò che ella proverebbe allorché fra poco, passando di qua, si imbatterebbe nel mio corpo. E deprecavo l'azione del sonnifero che, secondo ogni probabilità, mi avrebbe impedito di valutare subito il mio successo. Mi sarebbe piaciuto di sdoppiarmi per poter assistere alla scena, e fui tentato per un momento di buttare via il veleno e di fingermi lo stesso cadavere, affidandomi unicamente al mio talento teatrale. Ma in tal caso prevedevo che, sul punto critico della tragedia, non avrei potuto tenermi dal ridere e avrei rovinato tutto. E scartai, perciò, questa idea. Posai il bicchiere sullo scalino della soglia e mi sedetti là vicino, sull'erba, chiudendo le pastiglie nel pugno. Sul punto di compiere lo strano passo, esitavo tra la decisione presa e uno sgomento istintivo. Il fatto era che io non avevo nessuna esperienza di farmaci, di mali e di veleni, e le leggi della scienza, che io non avevo mai studiata, mi apparivano piene di misteri e quasi religiose, come quelle della magia a un selvaggio. Nella mia fantasia era confuso il segno che separava il malefico sonno di questo veleno dalla morte. Ciò che stavo per affrontare mi si rappresentava quale una specie di avanzata fin dentro il territorio della morte. Poi, come un esploratore, sarei tornato indietro. Ma la morte, da sempre, mi era così odiosa che il sospetto di inoltrarmi sia pure soltanto sulla sua ombra distesa mi inorridiva. Mi sorprese una debolezza sentimentale, una nostalgia che qualche mio fedele almeno si trovasse qua vicino a salutarmi a questo finto suicidio. Un amico, non una donna, giacché le donne sono tutte una razza senza fede ed io non mi sarei mai innamorato di nessuna. La sola donna della quale avrei gradito la vicinanza era la madre. Una madre viva, però, non quella antica che un tempo si trasportava per l'aria dell'isola sotto la sua tenda levantina. Oggi provavo compatimento per quella mia antica illusione. Avevo imparato, dopo di allora, che la morte ha soltanto volontà severe, mai pietose. Questo bel paesaggio infantile non si addiceva alla severità dei morti. La prima signora Gerace, non meno della misera Immacolatella, rifuggiva da questa mattinata lucente. Era oltrepassato già da parecchi giorni l'equinozio di marzo, che a Procida annuncia quasi l'estate, e l'atmosfera e l'acqua erano tutte e due così limpide che la figura di Ischia, nitida là di contro con le sue casupole e il faro, si raddoppiava nel proprio riflesso marino. Ogni cosa appariva chiara, precisa e isolata in se stessa, ma pure gli innumerevoli punti delle cose si mischiavano insieme in un colore divino e festante, verde, celeste, oro. Fra un momento già questo colore sarà diverso. Variazioni impercettibili, come una ridda di favolosi insetti che girano senza posa nella luce. Perfino il tristo penitenziario, là sulla punta della collina, è un arcobaleno di mille colori mutevoli dal mattino alla sera. Adesso dal golfo si ode lo strido d'un uccello acquatico, dal porto retrostante la sirena di una nave, dal paese uno scampanio. Anche i rinchiusi là nella prigione ascoltano queste note, anche i gufi che di giorno non vedono, anche le stupide alici che agonizzano nella rete. I beati rumori e iridescenze della realtà sono un teatro incantato che innamora ogni cuore vivente fino all'ultimo. Curioso di sapere se questo sonnifero dava pure dei sogni. Chissà se anche nella morte non si hanno dei sogni. Così supponeva quel buffone di Amleto. Ma io non sono un buffone al pari di lui e capisco bene la verità, che nella morte non c'è niente, né riposo, né veglia, né spazio d'aria, né mare, nessuna voce. Chiusi gli occhi e mi sforzai per un minuto di fingermi sordo e cieco, ristretto nel mio corpo, senza potermi più muovere, isolato da ogni pensiero. Ma no, non basta. La vita, là nel fondo, rimane, come un punto acceso, moltiplicato da mille specchi. La mia fantasia non saprà mai concepire la ristrettezza della morte. A confronto di questa infima misura, diventano signorie sconfinate, non dico l'esistenza di un misero prigioniero dentro una cella, ma perfino quella di un riccio attaccato allo scoglio, perfino quella di una tignola. La morte è un'irrealtà insensata che non significa niente e vorrebbe intorbidare la chiarezza meravigliosa della realtà. E mi pareva, simile ai marinai antichi dinanzi alle colonne di Ercole, di dover salpare fra poco su una corrente torbida che mi trascinerebbe via dal mio caro paesaggio verso qualche fossa tenebrosa. Chissà, mi domandavo intanto, se questo veleno avrà un sapore molto amaro. Si direbbe di sì, dalla smorfia di fastidio che ha sempre mio padre nel berlo. Egli poi si limita sempre alla dose prescritta, mentre che io oggi intendo sorpassare di assai il termine del divieto. La mia superiorità su di lui mi inorgoglì. D'un tratto la mia padronanza dimostrata, l'infrazione e il divertimento della prova diventarono per me i motivi più importanti di questo capriccio, scancellando quasi il mio primitivo scopo e addirittura il ricordo di Nunziata. Simile al re Ulisse, quando doppiava la scogliera delle sirene, mi sentivo libero e solo dinanzi a una scelta, o la prova o la rinuncia, e mi invase un gusto di gioco misterioso inaudito e di sfida temeraria, come se io fossi un audace ufficiale che dopo lo spegnersi dei fuochi e mentre le sentinelle dormono fa una scorribanda nel campo nemico fidando nell'impunità di una notte senza luna, solo e senza nessuna scorta. Risento ancora il sapore della prima di quelle pastiglie sulla lingua. Era insignificante, lievemente salato, appena amarognolo. M'andai giù con un sorso di vino e ogni cosa là intorno era rimasta uguale. Mi pareva soltanto che fino al limite dell'orizzonte si fosse fatto un silenzio affascinato, come al circo, quando il prode trapezista si slancia nel doppio salto della morte. Seguitai, con impazienza e spensieratezza, inghiottendo col vino due o tre pastiglie per volta, e credo che l'azione del vino precedette quella del sonnifero, giacché non tardai a sentirmi ubriaco. Si incominciò ad udire un lontano ronzio, ed io supposi che migliaia di pesci sega andassero segando l'isola alla sua radice. Mi aspettavo che l'intero paesaggio rovinasse e un simile evento mi appariva quasi riposante. Difatti, la bella mattinata, che prima mi piaceva, adesso mi era diventata repulsiva e tediosa. L'immenso pulviscolo del sole mi offendeva i nervi, torpido e sulfureo come una pestilenza. Mi venne la voglia di rigettare là sull'erba il vino e tutto il resto, ma mi rattenni. E con l'assurda idea di andare a riposarmi nell'ombra riuscii a levarmi in piedi. Credo che mossi pure qualche passo, ma sentivo di avere in capo un elmetto di metallo pesante, calcato fino sui sopraccigli, il quale non si poteva mai più togliere e con la sua tesa mi annerava la vista. Questa fu l'ultima cosa di cui ebbi coscienza. Non mi accorsi neppure di cadere, e da quel momento l'universo sparì per me. Non mi accorsi più di nulla, non ricordai, né pensai, né sentii più nulla. Thank you. saputo che quella mia totale assenza durò circa 18 ore, ma per me avrebbe potuto durare anche 500 anni, che sarebbe stato lo stesso. Per quanto io abbia ricercato, anche in seguito, nella mia mente una qualche traccia di quelle ore, pure dense intorno a me di movimenti, voci e frastuoni, non ho potuto trovare nulla. Quell'intervallo per me non è neppure un sogno o un'ombra confusa, è zero. E dal punto in cui cercai di spostarmi dal sole sullo spiazzo fino al mio primo rinvenire sull'alba del mattino seguente, corre meno di un attimo per me. La prima impressione che provai, dopo quello che a me parve un attimo, non fu di risalire alla vita com'era in realtà, ma al contrario di venir meno e di morire. Non sapevo dove mi trovassi, né le circostanze della mia fine. Non avevo coscienza d'altro che di questa fine. Ero in preda ad una nausea orribile, tutti i miei sensi erano spenti nel silenzio e nella cecità, e avvertivo solo l'agonia dei miei respiri che mi si staccavano dolorosamente dal cuore, perdendo via via la forza di salirmi alle labbra. Mi dicevo, non avrei creduto che la mia sorte fosse di morire oggi, e invece ecco la morte. Adesso finisco, muoio. E in tale sentimento tornai inanimato per un altro intervallo abbastanza lungo. Mi rendevo conto di giacere con gli occhi chiusi, e ciò mi pareva naturale, poiché mi ritenevo morto. Delle voci strappate, sperse in un fragore monotono, forse di mare, mi arrivarono. «Ecco che non sono più in vita», pensai trasognato. «E ancora sento. Dunque, non si è finiti con la morte». E fin dentro il malore che mi teneva, provai in fondo a me stesso un senso tremolante, leggerissimo di avventura. «Vediamo adesso che cosa c'è nella morte. Chissà che davvero non ci si riveda là con gli altri. Magari incontrerò mia madre, Immacolatella, Romeo». Fra le altre voci incerte, appunto, mi si distinse una vocina acuta di donna che gridava singhiozzando «Artù, che hai fatto?» Ed io intesi lucidamente che le rispondevo a voce alta «Sei tu, ma...» Ogni tanto ricadevo in un torpore sordo e poi riudivo quella vocina in lacrime. Mi si formava nella mente una nozione confusa. Forse la fatica eterna dei morti era di andare brancolando l'uno in cerca dell'altro senza potersi incontrare. Ogni mezzo d'orientarsi ad essi è tolto. La mia carissima madre sentiva che io mi trovavo poco distante e mi chiamava, ed io le rispondevo, ma le nostre voci ritornavano indietro a vuoto, come echi sconsiderati senza direzione. Più di una volta mi parve di aver gridato «Oi, ma, oi, ma», quando insperatamente la famosa voce che seguitava a ripetere «Artù, che hai fatto?» suonò chiara e concreta, prossima al mio orecchio. «Finalmente, eccola, è qua», mi dissi e riapersi gli occhi. Riebbi allora istantanea la consapevolezza della realtà presente. Ero vivo, questa donna che invocava Artù non era mia madre, ma la mia matrigna, e la ragione suprema della mia esistenza era di baciare costei. Un impulso rapido e deciso mi disse segretamente, o adesso o mai, e sebbene mi sentissi ancora quasi esanime, levai le braccia e la strinsi. Sentii sulla mia faccia i suoi riccioli, le sue lacrime, una freschezza primaverile, morbida e meravigliosa, e come un grande respiro una gioia profonda mi attraversò. «Ormai», mi dissi, «anche se dovessi morire di questo suicidio potrei morire contento». E tesi le labbra, ma troppo debole, in quel gesto ricaddi mezzo svenuto sul cuscino senza averla baciata. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini.